Grazie Luigi. Volevo ringraziare Luigi, è un ministro della nostra Chiesa davvero speciale, siamo così contenti di averlo e anche in modo particolare per questo mese vedere i risultati di un servizio così eccellente svolto da lui e tutto il Ministero dei Bambini con quello che è l'appuntamento di crescere. Coinvolgiamoci perché Dio ama i bambini, amen? E lui vuole raggiungere i bambini della città di Modugno, della nostra regione, della nostra nazione. I bambini stanno profondamente a cuore a Gesù e quindi devono stare profondamente a cuore alla sua Chiesa. Amen? Siamo d'accordo su questo? Quindi coinvolgiamoci, io so che gli Upside Down saranno coinvolti al 100% nel programma di crescere, quindi grazie per questo, ma anche adulti, coinvolgiamoci, preghiamo, partecipiamo, evangelizziamo insieme, contattiamo, sfidiamo noi stessi, mettiamoci fuori da quella barca in un territorio nuovo e non confortevole affinché lo Spirito Santo si manifesti attraverso di noi per raggiungere tutte le intere famiglie che raggiungeremo attraverso i bambini. Amen? Ci piace questo? Amen. Vogliamo immergerci nella parola di Dio stamattina? Io sono molto in aspettativa, come anche voi, giusto? Ah, bene, per quello che andremo a vivere insieme, perché stamattina andiamo di nuovo a considerare il valore della cena del Signore. Stamattina abbiamo la cena del Signore e più studio questo aspetto, più medito su questo aspetto, più mi rendo conto che c'è qualcosa di così profondo, così largo, così prezioso da riscoprire nella cena del Signore, che davvero dobbiamo svegliarci e scuoterci un po' tutti e toglierci di dosso quella che può essere una forma religiosa di partecipare alla cena del Signore. Non so per voi, ma dopo alcuni anni, essendo credente, ci sono cose che io vivo in chiesa e molto spesso le vivo in una maniera molto meccanica. La lode adorazione, so come va, so come si canta, so come si alzano le mani, sto veramente sempre adorando? Non sempre. La preghiera, so come si prega, so come chiudermi nella stanza, so come stare alla presenza di Dio, posso anche inginocchiarmi, ma a volte non c'è una reale comunione con Dio, una reale comunicazione con Lui nella preghiera. E così vale per tutte le attività che svolgiamo. Possiamo facilmente cadere in religiosità e routine in quello che viviamo come Chiesa. E io stamattina vorrei un po' scuoterti e un po' aiutarti anche a vivere quello che è il tempo prezioso che avremo questa mattina affinché celebreremo insieme la vera cena del Signore. Non un mangiare un pezzo di pane, bere un po' di vino, ma in una maniera meccanica, ma riscoprire il valore della cena del Signore e avere maggiore rivelazione del prezioso momento che stiamo per vivere, e per farlo dobbiamo necessariamente aprire la parola di Dio insieme. Lo facciamo sempre perché come Chiesa siamo una Chiesa che è basata sulla verità della Bibbia. La Bibbia è la verità in assoluto, la Bibbia è la rivelazione di Dio che ci è data, la Bibbia è quel messaggio di amore che Dio ha per noi, l'autore è l'amore in persona e ciò che comunica è amore, è poter vivere questo amore, sperimentare l'amore del Padre nei confronti nostri attraverso Cristo Gesù e il suo sacrificio. Quindi noi questa mattina vogliamo immergerci nella sua parola, immergerci nel suo amore e riscoprire insieme il valore della cena del Signore e avere nuove rivelazioni su questo per poi andare a partecipare alla cena del Signore con una nuova attitudine. Questo è l'obiettivo del messaggio di questa mattina, va bene? Ci piace? Quindi leggiamo insieme da Luca capitolo 22, versetto 14, questo brano che conosciamo, che è la Pasqua che Gesù celebra con i suoi discepoli. E qui c'è scritto che quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui, egli disse loro: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. Per me, a me piace tantissimo soffermarmi sulle espressioni che Gesù usa, no? Ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. Pensate gli apostoli che erano seduti in quella tavola con Gesù, quanto si sentissero amati. Vi soffermate mai nel leggere la Bibbia dando peso ad ogni singola parola? Se date peso ad ogni singola parola, voi scoprite quanto amore emerge da tutto quello che Gesù dice. Gesù sta dicendo: io ho vivamente desiderato celebrare questa Pasqua con voi. Che bello poter stare a tavola con Gesù e sapere che lui non si sente costretto a cenare con noi. Pensate, i discepoli in quel momento si sono sentiti nel posto giusto, con la persona giusta, completamente avvolti da amore. E il celebrare la cena del Signore è certamente un avvolgersi nell'amore di Cristo, celebrare qualcosa che ci fa sperimentare comunione con Lui e amore da parte sua. E poi va avanti dicendo: prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Poi prese un calice e, dopo aver reso grazie, disse: prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che da ora in poi non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Abbiamo visto la scorsa volta, un mese fa, per chi non ha potuto ascoltare questo messaggio, si trova su YouTube, abbiamo visto un mese fa, proprio in occasione della cena precedente del Signore che abbiamo celebrato come Chiesa, che la cena del Signore è qualcosa che noi facciamo in memoria sua. Infatti più in là Gesù dice: fate questo in memoria di me. E la scorsa volta abbiamo visto che celebrare la cena del Signore significa rinnovare la memoria di una maggiore liberazione che abbiamo ottenuto attraverso Cristo Gesù. Non entreremo nei meriti, nei particolari, però la Pasqua è qualcosa che veniva già celebrato dal popolo di Israele ed era un ricordare la liberazione ottenuta attraverso Mosè dal popolo egizio. Gesù ci dà la cena del Signore perché questo è segno di una maggiore liberazione che noi abbiamo ottenuto mediante il suo sacrificio. È memoria anche del suo amore per noi. Lo ripeto, perché se c'è una cosa che devo ripetere necessariamente stamattina, e mi assicuro di ripetere in ogni predicazione che faccio, è che Dio ci ama. È così importante, per quanto scontato esso sia, è importante che tu stamattina ti ricordi che sei profondamente amato da Gesù. La scorsa volta abbiamo visto che proprio anche il gesto di spezzare il pane è qualcosa che Gesù ha fatto per farci comprendere di che tipo di morte sarebbe morto e quanto amore c'era nel gesto che lui ha fatto. Ti rendi conto che tu hai una persona che è morta per te? E non solo è morta, ha sofferto, ha fatto in modo che la sua carne fosse completamente rotta e distrutta per amore tuo, perché ti ama. La cena del Signore è memoria dell'amore che Dio ha per ciascuno di noi. Quando stamattina andiamo a celebrare insieme la cena del Signore, ricorda il suo corpo spezzato per te, ricorda il sangue che lui ha versato abbondantemente per lavarti da ogni tuo peccato passato, presente e futuro anche. Gesù ha dato tutto se stesso perché ti ama. E quindi la cena del Signore è memoria del suo amore per noi, la cena del Signore è memoria del suo esempio di vita. Questo è anche quello che abbiamo visto. Quando noi ricordiamo Gesù, non ricordiamo solo dei fatti storici accaduti 2000 anni fa, la sua morte, la sua risurrezione, ricordiamo tutta la sua vita, ma c'è di più. Quando noi celebriamo la cena del Signore, noi non solo ricordiamo quello che è avvenuto in passato e le ripercussioni di quello che è avvenuto in passato nella nostra vita presente. Seguitemi bene, lo ridico. Quando noi celebriamo la cena del Signore, noi non solo stiamo ricordando quello che è avvenuto in passato, quello che Gesù ha fatto in passato e le ripercussioni di quello che Lui ha fatto nella nostra vita presente. Quando noi celebriamo la cena del Signore, noi viviamo anche un senso di aspettativa e di anticipazione per quello che avverrà in futuro. Amen. Non c'è solo un peso in quello che è accaduto nel passato, non c'è solo un peso in quello che è la ripercussione nel nostro presente, c'è qualcosa di estremamente glorioso in quello che è il futuro che ci sta davanti. Ed è qualcosa di importante, fondamentale, non è secondario. È un aspetto non secondario perché noi lo ritroviamo in ogni brano che ci istruisce sulla cena del Signore nella Bibbia. E infatti voglio leggere con voi questa porzione di brano, di questi versi che sono una parte dei brani che istruiscono sulla cena del Signore. Già l'abbiamo letto in Luca, l'abbiamo letto quando Gesù dice non mangerò più finché sia compiuta. La Pasqua non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. E poi aggiunge, da ora in poi non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. E poi possiamo leggere insieme in Matteo 26, 29, vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Marco 14, 25, in verità vi dico che non berrò più del frutto della vigna fino al giorno che lo berrò nuovo nel regno di Dio. 1 Corinzi 11, 26, tutti i brani della Bibbia che parlano e istruiscono sulla cena del Signore parlano di questo aspetto. 1 Corinzi 11, versetto 26, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore, ripetete con me, finché Egli venga. Quando noi celebriamo la cena del Signore, noi stiamo vivendo l'aspettativa, l'attesa di quello che ancora dobbiamo vivere e scoprire nella vita futura che ci sta davanti nell'eternità. E Gesù è così riccamente in aspettativa con noi che mentre noi mangiamo e beviamo, Lui digiuna. Questo è quello che la parola di Dio ci mostra. Che Lui sta facendo un digiuno costante dal vino perché in attesa di quella cena che puoi andare a leggere in Apocalisse 19 verso 9, che è quella cena nella quale noi tutti uniti come Chiesa universale nei tempi ci uniremo in un banchetto nel quale il nostro Re, il Signore Gesù Cristo in gloria sarà celebrato da noi, glorificati con Lui e sarà celebrato in questa cena. Quindi c'è stata una cena di Mosè, la Pasqua di Mosè, c'è stata la cena, quella che celebriamo noi oggi, ci sarà un'altra cena molto, ma molto più gloriosa e Cristo è in aspettativa di quello che sta per succedere. Sei tu in aspettativa di questo? Quando noi celebriamo la cena del Signore ci diamo l'opportunità di entrare nella mente di Cristo, nel cuore di Cristo e percepire con Lui l'aspettativa di quello che ancora noi non abbiamo potuto vivere e gustare. E non è un aspetto secondario. Non è un aspetto secondario perché Gesù non fa altro nei Vangeli che insegnare sul regno dei cieli e sulla vita eterna. Non fa altro che parlare in parabole, portando ogni ascoltatore alla riflessione della vita eterna. Non fa altro che profetizzare. Un'altra cosa che Gesù fa è dare profezie sui tempi che verranno, i tempi nei quali Lui tornerà e l'eternità di gloria che noi vivremo o in disperazione e sofferenza eterna nell'inferno oppure nella gioia perpetua senza alcun dolore, senza alcuna sofferenza, senza alcuna malattia nel paradiso che ci spetta per grazia in Cristo Gesù dove Lui ci attende. È fondamentale, non è un aspetto secondario. È vero, non ne parliamo molto. È vero, non stiamo sempre lì a pensare a questa cosa. E forse non stiamo lì a pensare all'eternità, perché in fondo è come se è un aspetto misterioso, incomprensibile. Ed è così. Sapete, la scorsa settimana ero in Svizzera e ho rivisto mio fratello, mia cognata, i miei tre nipotini svizzeri, bellissimi, e io non sono solito a fare molti regali, e a loro, anche per la distanza, mi risulta molto difficile fare regali. Sono pessimo a fare i regali, però questa volta mi sono voluto riscattare. E quindi ho cominciato a comprare un regalino a testa per ciascuno di loro. Prima per i tre piccoli, poi ho pensato, vabbè, ma anche Jonathan e Pasquina dovrebbero avere un regalo, e quindi ho comprato anche un regalo per Jonathan, un regalo per Pasquina. E poi, visto che giravo nei centri commerciali e non sono solito fare shopping, ma ho scoperto nuovi posti. In ogni nuovo posto dove andavo trovavo nuovi regali e non volevo fermarmi. E quindi ho cominciato ad accumulare talmente tanta roba che è risultato addirittura difficile metterla in valigia e portarla in Svizzera. Ho riempito i miei nipotini di regali. Non c'è cosa migliore che vedere dei bambini che scartano i regali. Non c'è cosa migliore che vedere le loro facce, e avrei voluto mettere una telecamera e registrare quel momento, perché è stato prima un momento un po', come dire, freddo, un po' di prassi. Ora zio è andato a prendere i regali e c'era aspettativa, ma forse anche perché mi conoscono, sai, erano in aspettativa del regalino, quello un po', sai, che ti devi far piacere, quindi si stavano preparando al sorriso di circostanza. Però in realtà i regali erano davvero azzeccati. Per una volta ho azzeccato i regali giusti per i miei nipoti, e la cosa bella è che aprivano il primo regalo ed erano estremamente contenti, felici, e cominciavano a scomporsi, non stavano più seduti nel divano, cominciavano a correre, a giocare già con il giocattolo avuto. E poi io dicevo, ma c'è dell'altro, c'è un altro regalo, e i loro occhi si allargavano, lasciavano quel regalo appena ottenuto per prendere l'altro, e poi c'era l'altro ancora, ed ero diventato il Babbo Natale nella Svizzera, tra le montagne, c'era fuori una slitta con le renne, mi sentivo veramente realizzato, perché i miei nipoti erano felicissimi. E sapete qual è la realtà? La realtà è che quello che Gesù ha fatto per noi è tutta una serie di regali. Tutto quello che Lui ha fatto nella sua vita, nella sua morte e nella sua resurrezione significa per noi regali su regali, benedizioni su benedizioni. E la benedizione è il regalo più grande, è quello che ancora non è scartato, è quel regalo che ci spetta per l'eternità, è il regalo più importante, il regalo più grande, il regalo più di peso, perché, badate bene, Gesù non è morto solo per darci una vita terrena che è temporanea e passeggera, e Lui lo sapeva bene, migliore. Lui è venuto perché Lui sa quello che andremo a vivere per l'eternità, e quindi Lui ci ha dato il dono migliore, che non è una vita perfetta su questa terra, ma è la promessa di una vita perfetta per l'eternità. Non l'abbiamo ancora scartato, non l'abbiamo ancora aperto, non ci abbiamo ancora giocato, non abbiamo ancora gustato questo regalo, ed è per questo che è difficile a volte descriverlo, a volte è difficile comprenderlo, a volte è difficile immedesimarci sulla gloriosa speranza e benedizione che vivremo per l'eternità, ma è lì, ed è per te, è per te. Oi, ti ho svegliato. È per te ed è per ciascuno di noi, e lo scarteremo quando Lui tornerà. E se non sarà in questa vita, saremo noi a raggiungerlo. E questa non è una notizia triste, ma per noi credenti è la notizia più gloriosa. Abbracciare la comprensione del peso e del valore dell'eternità ci dà prospettiva. Ci dà la giusta prospettiva di vivere questa vita terrena. Se tu hai una chiara prospettiva dell'eternità e abbracci gli insegnamenti e con fiducia credi in quello che Gesù dice su questa vita eterna, la tua vita permanente e temporanea su questa terra avrà una prospettiva completamente stravolta, cambiata e avrà veramente senso. Gesù racconta questa storiella che conosciamo bene, no? Dell'uomo stolto, dell'uomo saggio. L'uomo saggio è quello che costruisce la casa sulla roccia. E dice, l'uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia, sulla quale si abbattono i venti, si abbatte la tempesta e non crolla, è la vita di quell'uomo che ascoltando le mie parole le mette in pratica. Il cuore di Gesù per ciascuno di noi è che noi possiamo avere una vita stabile, e stabile anche emotivamente. Sapete come comincia però tutta questa predica che si conclude con questa storiella? Sapete come Gesù apre il discorso per poi concludere con la storiella di una vita stabile, la cui casa è fondata sulla roccia? Con queste parole qua. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra». Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Quando tu hai una giusta prospettiva della vita eterna, tu cominci ad essere stabile e incrollabile davanti a ogni tipo di sofferenza e afflizione terrena. E io non so se voi leggete con me quello che io leggo in questi versi. Perché sebbene in alcune di queste beatitudini Gesù sta dando delle promesse che possiamo afferrare e vivere adesso, ora, nella maggior parte di queste beatitudini, nella maggior parte delle sofferenze che lui sta elencando, la speranza che lui offre non è per questo tempo e su questa terra, ma è per la vita eterna e il futuro in avvenire glorioso che vivremo nella pace eterna che ci sta davanti con Lui. La beatitudine di Gesù ha senso perché Lui sta elencando delle sofferenze che saranno ricolmate abbondantemente da delle promesse. Ed è per questo che diventano beatitudini. Tu diventi beato, ovvero felice, nel momento in cui soffri, non perché ti autoconvinci di essere felice, ma perché guardi, mediti, aggrappi e afferri la promessa che deriva da quella sofferenza e che Gesù ti dà. E le promesse, ve le voglio leggere, che hanno un evidente riferimento alla vita eterna, sono queste: saranno consolati, erediteranno la terra, saranno saziati, vedranno Dio, il premio loro sarà grande nei cieli. Sapete, la maggior parte delle crisi spirituali che i credenti vivono, quando io mi confronto con dei credenti che sono in crisi, derivano dal fatto che non hanno una minima percezione dell'eternità. E addirittura quando soffrono, reputano che la sofferenza è una dimostrazione del fatto che Dio o non esiste o non ci ama abbastanza. Come se Dio avesse mandato il suo figlio per ripristinare il paradiso su questa terra all'atto della sua morte e della sua risurrezione. Non è questo quello che è successo. Noi non stiamo nel paradiso. Fratelli e sorelle, oggi non è quel tempo. Oggi non è il tempo nel quale non c'è più lacrima, non c'è più malattia, non c'è più sofferenza, non c'è persecuzione, non ci sono situazioni difficili e circostanze dove noi ci sentiamo abbandonati anche da Dio. Non è questo il tempo. Non è questo il momento. Non è questo il posto. Ma il tempo sta per venire. In breve tempo, quel tempo, quel posto verrà e ci deve trovare preparati. Nel celebrare la cena del Signore questa mattina, tu puoi afferrare questa rivelazione e cominciare a dire: io non sarò più scosso dalle mie situazioni difficili, io non sarò scosso dalla sofferenza, e anche quando Dio sembra assente, io so che Lui non è assente, perché quello che Lui ha fatto sulla croce è qualcosa di molto più glorioso di quella che è la mia aspettativa, che Lui esaudisca tutte le mie preghiere qui e ora. La mia aspettativa è che Gesù, avendo promesso la vita eterna, mi darà la vita eterna. E in quell'eternità io non soffrirò più. Che cos'è la tua vita? I tuoi 90 anni, i tuoi 80 anni, 60 anni, 70 anni, 50 anni, che cos'è la tua vita? Tutto questo insieme di giorni e di anni che si ripetono e si ripresentano nella tua vita, che cos'è tutto questo in vista dell'eternità? Giorni infiniti, anni infiniti, eternità, qualcosa che non ha fine. Che cosa è la tua vita su questa terra oggi? Eppure noi siamo concentrati su tutto quello che è qui e ora, e tutto quello che è qui e ora conta. E la gioia di qui e ora è ciò che vale più di ogni altra cosa, e siamo disposti a tutto e ci facciamo derubare il dono più prezioso, che è la rivelazione di Cristo. Gesù, parlando dei vari terreni e del seme, vi ricordate quella parabola? Dice che c'è un seme il cui frutto viene soffocato da due aspetti, dai piaceri della vita e dalle ricchezze. Come credenti noi abbiamo il dovere di liberarci dall'idea che quello che noi dobbiamo vivere su questa vita, su questa terra, è un inseguimento costante per quel piacere momentaneo che i piaceri della vita hanno da offrirci e che le ricchezze di questa terra hanno da offrirci. Gesù ci mette in guardia e ci mostra l'eternità e ci proietta verso l'eternità e ci dice: figli miei, guardate a quello che sta per venire, perché ha molto più valore. E quando tu lo fai, la tua sofferenza riceve una prospettiva completamente diversa e tu sei stabile, sei quella casa incrollabile, perché sai che sei beato nonostante le afflizioni e nonostante le sofferenze e nonostante le cose ancora incomplete, adempiute, che vorresti vedere nella tua vita. Non solo la prospettiva dell'eternità mette nel giusto ordine quella che è la sofferenza della nostra vita, ma mette anche nel giusto ordine quella che è la gioia della nostra vita. Cosa ti rende felice? Cosa anima la tua gioia oggi? Se tu potessi essere sincero in questo momento con te stesso e dire qual è la cosa che realmente ti fa stare bene e gioioso, lì forse scopri esattamente qual è l'indicazione della bussola della tua vita e dove tu stai andando e dove finirai anche per l'eternità. Gesù vuole che tu riscopri il valore della gioia maggiore che c'è nelle cose di lassù. E sapete, non tutte le gioie sono un peccato. Ma è un errore mettere al di sopra qualsiasi altra gioia se non la gioia dell'eternità con Cristo Gesù e l'eredità nel regno dei cieli. C'è questo episodio dove Gesù, oltre i 12, sceglie 70 discepoli. A questi 70 discepoli dice di andare nei vari villaggi, li manda due a due e dice loro di predicare l'Evangelo, di predicare il regno di Dio e da loro autorità e potenza, di cacciare demoni e di guarire i malati. È un episodio meraviglioso perché Gesù prende delle persone inadeguate, incapaci e permette a loro di vivere una cosa straordinaria, che è quello che Gesù fa per noi, con noi. Lui ci chiama delle vite straordinarie, lui dà a noi una possibilità di vivere una vita che ha da arricchire gli altri, non impoverire gli altri per arricchire noi stessi. E quindi Gesù manda questi 70, due a due, e questi cominciano a vedere segni e miracoli, vedono demoni che escono dalle persone, persone che guariscono, tornano da Gesù e riportano a Gesù quella che è la gioia che stanno vivendo nello sperimentare questa vita gloriosa. Guardate la risposta di Gesù. Luca 10, versetto 17. Ora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come un folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti. Non vi rallegrate per i segni, i miracoli, i prodigi. Non vi rallegrate per quelle che sono le opere potenti che potete fare su questa terra. Non vi rallegrate di quello che è il destino al quale io vi ho chiamato e che io adempio attraverso di voi. Non vi rallegrate di questo, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Gesù lo dice ai suoi discepoli e a noi oggi per farci comprendere che c'è sempre una gioia superiore. E la gioia superiore che il credente ha da vivere è l'aspettativa della gloriosa, del glorioso ritorno di Cristo e della nostra gloriosa appartenenza al suo regno per l'eternità. La gioia più grande è questa. Non è sbagliato, cioè Gesù non credo che stesse dicendo, era lui stesso allegro, entusiasta, non stava dicendo sbagliate ad essere allegri, ma sta rifocalizzando, riorientando quella bussola per i suoi discepoli dicendo guardate sempre alla gioia maggiore, perché c'è sempre una maggiore gioia dal quale dipendere. Forse un giorno questi segni non saranno così eclatanti, forse vi sentirete ministerialmente abbattuti perché abbandonati e non compresi. È qualcosa che è successo poi più in là. Ma non perdere la gioia della tua vita che è nascosta nella rivelazione della vita eterna che hai, quale dono, ce l'ha Adriano adesso, quale dono in Cristo Gesù. Con questa rivelazione vogliamo partecipare alla cena del Signore. Nella consapevolezza che mentre noi mangiamo questo pane e mentre noi beviamo questo vino, Lui è in digiuno ed è in attesa per quel giorno glorioso nel quale vivremo la cena con Lui. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo vivere questo tempo in preghiera. Vuoi tu metterti in discussione da solo per quella che magari è la tua sofferenza, le tue afflizioni? Vuoi tu metterti in discussione davanti a Dio per quella che è la tua aspettativa per questa vita e per le gioie di questa vita? Vuoi tu metterti in discussione per tutto quello che hai sentito e dove sai che lo Spirito Santo ti ha parlato? Vuoi tu discutere con Gesù, parlare con Lui e affrontare questo insieme a Lui, celebrando la cena del Signore? Per chi non è ancora battezzato da adulto, noi incoraggiamo a non partecipare ancora alla cena del Signore, ma questo può essere un tempo per te, che forse sei qui per la prima volta o per le prime volte, o ancora non hai fatto il passo del battesimo da adulto, per riflettere su queste parole. E magari fare una preghiera, e pregare significa semplicemente parlare con Dio e dire a Lui: Dio, se ci sei, io voglio la benedizione delle tue promesse nella mia vita. Prima e più di ogni altra, la benedizione della salvezza eterna. Padre, noi siamo grati a te per la tua parola, e Gesù, noi siamo grati a te per quello che tu hai fatto per noi. Quanto prezioso è il tuo nome, quanto preziosa è la tua vita, quanto prezioso è il tuo morire e risorgere per noi, quanta ricchezza c'è nella salvezza che tu ci dai per grazia. Grazie Padre, perché non dobbiamo conquistarcelo, non è dovuto ai nostri meriti, ma possiamo riceverlo, e questa mattina noi vogliamo ricevere nel nostro stomaco il tuo pane, per ricordare anche con questo atto pratico quello che tu hai fatto per noi. Vogliamo ricevere il vino e riconoscere che siamo parte di questo glorioso nuovo patto che ci dà la promessa di una vita eterna senza sofferenza, dolore, malattia, peccato e morte. Gesù, noi ti glorifichiamo e ti ringraziamo per quello che hai fatto, e benediciamo questo tempo, io benedico questo tempo per noi come Chiesa, affinché tu possa ministrare ulteriormente nei nostri cuori. Amen.